Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. All'ombra dell'arco di Marco Aurelio, al riparo dalle minacce dell'ISIS che incombono invece su altri gioielli dell'archeologia libica, l'accusa all'Italia romana, come l'ha chiamata Al-Qaeda, di avere occupato Tripoli non viene presa sul serio. Ma sulla missione di peacekeeping che il nostro paese si è candidato a guidare si ragiona. Se entrano direttamente in suolo libico i soldati, io la chiamo invasione, mi dice quest'uomo. Se vogliono combattere il terrorismo, ci sono altri modi che aiutino l'esercito, la polizia, che li addestrino e forniscano le armi. Il governo italiano non sottovaluta le minacce del numero 2 di ACMI, Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Poi l'appello ai libici, evocando le primavere arabe, respingete l'invasore. Sono parole che rischiano di avere presa, ammette lui. Vedi un italiano e pensi, quella è nipote del generale Graziani che ha fatto uccidere il mio bisnonno. Nel video di Al-Qaeda, il riferimento al generale fascista che debellò a colpi di impiccagioni la resistenza al colonialismo italiano non poteva mancare. Non è da escludere che il video sia un prodotto a uso e consumo interno, frutto della rivalità mai sopita tra Al-Qaeda, che un tempo aveva il primato nella galassia jihadista, e lo Stato islamico che invece... Si comincia a parlare in maniera insistente nuovamente di Libia. Gli argomenti fondamentali non sono molto cambiati. Il nostro eterno e insanabile debito che abbiamo verso la Libia per quello che ha fatto il generale Graziani. E questo è un dato di fatto. Il fatto che la Libia in questo momento possa rappresentare per noi una minaccia, perché in Libia si sta assemblando un esercito jihadista e ci sentiamo proprio vicino, siamo ancora memori di quel missiletto che ci sparò Gheddafi, che sembrava quasi essere arrivato in un punto nevralgico del nostro paese. E cosa sta accadendo? Sta accadendo che il nostro ministro della difesa Pinotti dice ci stiamo preparando a fare cosa? A invadere la Libia, come dice questo algerino numero 2 di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Ci prepariamo ad andare a fare un'operazione di pace, le solite nostre operazioni di pace, che poi fanno spesso tornare i soldati dentro un sacco di plastica. Oppure com'è la questione? Questo oggi è il tema che noi proporremo, vorremmo, se possibile, di dare degli elementi di chiarimento e vorremmo sapere da voi che state a casa, state cominciando a sentire ancora una volta la minaccia o l'angoscia di qualcosa ci tocca da vicino o è qualcosa di cui parlano i giornali, che non ci sfiora. Ci sono problemi molto più importanti, inizia fra poco il Festival di Sanremo. Alfredo Mantici, buongiorno. Buongiorno. Direttore della rivista geopolitica Lookout News, ex capo del Dipartimento Analisi del SISTE. Innanzitutto facciamo chiarezza. Quando noi parliamo di noi Libia, noi siamo l'Italia, nel bene o nel male questo siamo, ancora un'idea generale di unità nazionale può esserci, ma quando parliamo di Libia di cosa parliamo? Beh, intanto commettiamo un errore sostanziale usando il termine Libia al singolare. Oggi di Libie ce ne sono quattro. E qualunque sia l'evoluzione o l'involuzione della situazione, difficilmente torneranno ad essere una Libia quale l'abbiamo conosciuta. Ma secondo lei il ministro Pinotti a quale Libia alludeva? Il ministro Pinotti si riferisce a una Libia che in questo momento è in costruzione, perché i due parlamenti eletti con elezioni rispettivamente contestate di Tobruk e di Tripoli si stanno mettendo d'accordo, stanno discutendo sulla formazione di un governo di unità nazionale. Quindi due delle Libie, quella di Tobruk da una parte e quella di Tripoli dall'altra, potrebbero riunificarsi all'interno sotto l'egida di un solo governo. È un processo difficile perché le tensioni politiche tra i due schieramenti sono fortissime. E anche dal punto di vista ideologico, perché il governo di Tripoli è un governo islamista, non jihadista, ma islamista, islamico quantomeno. Il governo di Tobruk si poggia sui fondamenti dell'operazione Dignità varata dal generale Haftar, che è il ministro della difesa di Tobruk, e che è composto dalla buona borghesia laica libica e da parte dei moderati del tempo di Gheddafi. Come noi con quale ci rapportiamo di queste Libie? Noi ci dobbiamo necessariamente rapportare con un governo riconosciuto e quindi... in questo momento l'unico governo riconosciuto dalla comunità europea e internazionale è il governo di Tobruk, ma il governo di Tripoli ha una sua legittimità prima di tutto perché occupa una porzione del paese, secondo perché è stato comunque eletto da una parte del paese. Allora, ci fermiamo un istante, 800 24 00 24, questa è una trasmissione da seguire con attenzione. Se avete dubbi, se avete domande, se avete angosce o se avete certezze, è proprio il momento di comunicarcele. 800 24 00 24. Melog, cronache meridiane. La preoccupazione per il caos in Libia è stata condivisa nel corso di una riunione presieduta dal premier Matteo Renzi. I report che arrivano dalla Libia sono allarmanti: i tentativi di penetrazione dell'ISIS, gli attacchi delle milizie nere ai pozzi petroliferi nell'est del paese e la minaccia all'Italia arrivate via video anche da parte di Al-Qaeda. La strategia italiana punta alla formazione di un esecutivo nel paese nordafricano, in modo che un eventuale intervento ci sarebbe dietro richiesta libica e sul mandato delle Nazioni Unite. Da qui l'invio degli AMX a Trapani, stessa base da dove nel 2011 gli italiani partirono per bombardare le forze di Gheddafi. 800 24 00 24, cerchiamo di fare un quadro in ciò che molte volte viene recepito dall'informazione che leggiamo in maniera frettolosa, perché sembrano cose che non ci toccano da vicino. La Libia è abbastanza vicina all'Italia, dalla Libia comunque passano molti dei flussi dei migranti che arrivano nelle nostre coste. La Libia comunque è qualcosa che in qualche maniera rappresenta proprio una minaccia, potrebbe rappresentare. Alfredo Mantici ci ha cominciato a illustrare il fatto che di Libia ce ne sono quattro. Ne abbiamo parlato di due Libie, la Libia di Tobruk e la Libia di Tripoli, che mi sembra che siano quelle che hanno nel bene o nel male un abbozzo di profilo istituzionale. Ma le altre due cosa sono invece? Dunque, dopo le elezioni del 2014, un gruppo di miliziani della città di Derna, che occupavano la città di Derna, ha proclamato la propria adesione all'ISIS, quindi ha costituito con elementi libici, non facciamo confusione, non ci sono guerriglieri che vengono dalla Siria o dall'Iraq. Vabbè, franchising. Hanno preso il pacchetto e hanno detto siamo dell'ISIS. Hanno comprato il marchio e hanno detto siamo dell'ISIS e hanno occupato Derna e Sirte. Questi sono i nostri nemici più pericolosi e per intervenire... Che tipo di attività fanno che potrebbe nuocerci, in sintesi? Fanno campi di addestramento, potrebbero... Dunque, intanto per presentarsi all'opinione pubblica mondiale hanno decapitato sulla spiaggia di Sirte 21 cristiani... Fronte mare, per fare dire che i prossimi siamo... Con una corta regia hanno decapitato 21 cristiani copti di nazionalità egiziana. Si sono presentati. Quello che è importante per loro è che controllano all'interno del Golfo della Sirte, di quella che viene chiamata la mezzaluna petrolifera, controllano importanti terminali. Quindi hanno anche soldi, maneggiano anche petrolio, soldi. Vendono petrolio, quello che fanno anche in Siria. E come unica e prevalente attività militare attaccano i terminali petroliferi sotto il controllo dei governi di Tripoli e di Tobruk, per limitare la loro capacità di vendere petrolio. È come quelli che rubano rame dalle nostre parti, la stessa cosa. Esatto. Vivono succhiando petrolio ai due governi, ai due, diciamo, rappresentanti ufficiali, Tobruk e Tripoli. Poi ce n'è una quarta. Oh, questi sono i tre protagonisti di questo dramma che ci interessano. Poi c'è un quarto protagonista, che è il grande complesso delle tribù e delle municipalità del sud e del Fezzan, che, avendo riconquistato la propria autonomia, non hanno alcuna intenzione né di entrare sotto un qualunque governo nazionale, né di partecipare alla ricostruzione di una Libia unificata. Sono, tra virgolette, regrediti alla condizione tribale e i signori della guerra locali hanno ripreso i loro traffici, che sono prevalentemente traffici di contrabbando con l'Algeria e con la Tunisia, e non hanno, e per tutto il 2014 si sono rifiutati di discutere con gli inviati ONU, non hanno alcuna intenzione di rientrare all'interno di un paese che non sentono loro. Questi sono irrecuperabili. Però non sono pericolosi, non ci danno fastidio. Per tutta la loro esistenza continueranno a fare quello che fanno. Esatto. Il problema è dato dall'ISIS, da Sirte e da Derna. Allora, noi dovremmo aggredire questo focolaio infettivo. In termini numerici quanti sono? Pochissimi in termini numerici, non superano i 5.000 armati professionali. Diciamo un esercito moderno e organizzato non ci metterebbe tantissimo. Guardate, io sono convinto, l'ho scritto e lo vado dicendo da un anno, noi abbiamo perso una finestra di opportunità straordinaria, perché dopo la decapitazione dei cristiani copti, l'esercito egiziano, su ordine del generale al-Sisi, ha bombardato Sirte. In quel momento noi, Occidente, non abbiamo sostenuto. Bisognava dargli una mano, entrare. Bisognava dargli una mano, entrare, far entrare loro. Anche. Perché non è stato fatto? Credo perché la prudenza delle diplomazie ha fatto trascorrere il tempo e ha fatto chiudere quella finestra di anche opportunità. Anche perché avrebbero tolto le castagne dal fuoco. Esatto. Facevano tutto loro. O comunque avremmo potuto avere una ottima base logistica ai Alamein, diciamo, e da lì muoverci verso la mezzaluna petrolifera. Danilo, buongiorno. Buongiorno. Dirò subito che il mio intervento è un po' polemico. Siamo qua. Riguardo al fatto che non capisco cosa interessa l'Occidente, qual è il governo scelto dal popolo, visto che sia Gheddafi che presidente della Siria erano stati eletti dal popolo. Quindi non vedo qual è il problema. Se devono fare quello che vogliono fare, lo facciano. L'ISIS c'è da un po' di anni, siccome adesso va a prendere il petrolio, all'Occidente gli dà fastidio, quindi ci mascheriamo di questo buonismo, quando sono anni che c'è l'ISIS. Tra virgolette... No, scusi, no, Danilo, solo per capire, sintetizzi il suo intervento. La mia cosa, quello che voglio dire è che all'Occidente delle persone non gli interessa niente. Vabbè, questo è un dato di fatto. Controllare il petrolio. Ah, poi tra l'altro, oltre all'ISIS che ammazza chi ammazza, ci sono gli Stati Uniti che tutti i giorni bombardano il nord del Pakistan. Zone, parliamo della Libia, poi adesso parliamo della e Libia. Nessuno dice niente. Sì, ma Danilo, arrivederci. Non è un proclama, vorrei capire esattamente cosa vuol sapere lei sulla Libia. Che la cattiva coscienza dell'Occidente non è interessato ai valori umani, interessato no, al petrolio. Assolutamente no. Vabbè, non è che scopre, sì, ma non è che scopre nulla, è un dato di fatto. Su questo, non è che perché siamo cinici, se continuiamo. Vorrei capire, riguardo la Libia, qual è la sua domanda precisa? Qual è la sua perplessità? La mia perplessità è. Perché devono riconoscere un governo quando non li riconoscono, quando ci sono? Quindi che facciano quello che devono fare senza stare qui a raccontarci delle fandonie. Punto. Cosa gli interessa che c'è in Libia? Devono andare a prendere quelli dell'ISIS che li prendano. Punto. Basta. Mi sembra quello che sosteniamo noi. Comunque sentiamo Mantici, Alfredo Mantici. Vediamo se... Danilo ha toccato dei punti che sono significativi. Darei meno valore al petrolio in un momento in cui il prezzo del greggio è sotto i $30 al barile. Il petrolio non è più quello che era 5 o 10 anni fa. E cos'è oggi invece l'oggetto? Il problema è che in Libia si sta costituendo un'area di minaccia permanente nei confronti del Mediterraneo e dell'Europa. Cioè avere un califfato sotto di noi non fa piacere quello a nessuno. Quello è il problema. Guardate, io sono sicuro che se non fosse comparsa l'ISIS a Sirte e i libici avessero continuato a scannarsi tra di loro, tra Tobruk e Tripoli, non si sarebbe parlato di intervento. Perché occorre un governo? Perché in una guerra civile non si può intervenire senza avere una solida fazione che ti invita, perché non si può combattere contro tutti a 360 gradi. È essenziale che un eventuale intervento occidentale abbia un interlocutore valido locale e, diciamoci la verità, un solo nemico da combattere, non tre. Se no saremmo tutti collizzati sul fatto che invadiamo. Allora è intelligente quello che ha scritto, che ha proclamato il signore d'Al-Qaeda, dice venite a invadere la Libia, quindi sono tutti d'accordo, i fantasmi del passato, Graziani via dicendo, tutti d'accordo, tornano gli italiani a invadere la Libia. Invece è un po' più articolato il problema, mi sembra aver capito. Massimo, buongiorno. Sì, Nicoletti, buongiorno, complimenti a lei, alla trasmissione e agli ospiti. Io, come penso la maggior parte di chi ascolta la vostra trasmissione, sono interessato solo a sapere il perché sulla Libia, ma in senso generale, non si interviene quando c'è il focolaio e si aspetta che si allarga a macchia d'olio per fare un intervento. Tutto qua. Sentiamo la risposta abbastanza facile, Mantici, perché allora si è intervenuti quando si è fatto massacrare Gheddafi in quel momento? Io ricordo a Massimo che purtroppo così va la politica internazionale. Hitler disse quello che voleva fare, lo scrisse nel Mein Kampf nel 1923. Nel 1933 ha preso il potere e ha cominciato a fare quello che aveva detto. Fino al 39 non c'è stato modo di intervenire in via preventiva. Questa è la politica internazionale. Adesso il problema sta avvicinandosi pericolosamente alle nostre coste e finalmente le politiche estere dell'Europa, perché purtroppo non ce n'è una sola, si stanno orientando passo passo verso un tentativo di intervento. Ripeto, un tentativo che però non può essere una, tra virgolette, invasione della Libia, che ci porterebbe a scontrarci contro tutti, contro tutte le fazioni. Dobbiamo avere degli interlocutori che, tra virgolette ancora, ci autorizzino a creare una base logistica, ci autorizzino ad operare contro il focolaio, e cioè contro i jihadisti dell'ISIS. Ma è plausibile come scenario il fatto che Tobruk e Tripoli trovino una forma di accordo sul fatto che l'Occidente intervenga? Sì, è plausibile, perché anche a loro dà fastidio la presenza dell'ISIS, perché voi pensate che la Libia ha perso negli ultimi 3 anni 64 miliardi di reddito petrolifero. Costa cara a loro questa cosa, comincia a costare troppo cara. Ma dovrebbero abbozzare sul fatto dell'integralismo, cioè dovrebbe dire facciamo un passo indietro. No, Tripoli è islamica ma non jihadista. L'unico problema che si è creato in questi giorni è il ruolo del generale Haftar. Il generale Haftar è la forza è il comandante della forza armata più importante di Tobruk. Il generale Haftar vuole fortissimamente diventare ministro della difesa del nuovo governo unificato. I tripolini non gli perdonano quella che lui chiamò l'operazione Dignità e non vogliono la persona del generale Haftar. È su questo che si sta discutendo in questi giorni. Un tema interno molto delicato, mi sembra non indifferente. Marco, buongiorno. Buongiorno. No, io facevo semplicemente una constatazione e una domanda. Il primo, lo parlo proprio da ignorante, non ho mai capito perché l'Occidente non si è mai costruito, tra virgolette, una fonte di energia in casa, ma è sempre dovuto andare in Oriente a prendersi questo benedetto petrolio. E la seconda è una constatazione, nel senso, è possibile un mondo con una forma di energia che sia diversa? È vero che il petrolio costa meno, però se ne usa poi di più, perché tutti i computer sono in realtà anche lì tutti fatti con dei sistemi legati sempre al petrolio, quindi ecco, le guerre vengono poi dall'ISIS, esiste, ma l'ISIS lo crea poi sempre l'Occidente. Lei dice quando troveremo finalmente questa maniera di procurarci energia in maniera pulita e differente, cadranno questi scenari, perché è vero però che il petrolio è stato alla base di tutte le tensioni che ci sono state dal dopoguerra a oggi. Il petrolio, specialmente quello medio orientale, è il petrolio che ha una qualità così elevata che costa pochissimo trasformarlo in carburante. Quindi la ricchezza saudita deriva dal fatto che il loro è un petrolio purissimo. La seconda amara constatazione che mi viene da fare è che c'è un'energia meno costosa, ma è pericolosa, è l'energia atomica. È l'unica energia che l'Occidente può produrre da solo, però quasi tutti abbiamo deciso che i rischi sono eccessivi. In Italia abbiamo fatto un referendum, esatto. Abbiamo detto che non ci interessava e quindi adesso è inutile piangere su questa cosa che è passata. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. Mi scrive un ascoltatore: Nicoletti, pensi sapere tutto tu, sei tracotante nelle tue espressioni quando gli ascoltatori sono più intelligenti di te. Questo è un bene per me, trovare persone più intelligenti, acquisisco io qualcosa. Senti tutta la tua inferiorità intellettuale, per questo rispondi ACE. Non rispondo ACE solo per capire. I tempi della trasmissione che sto rubando adesso sono questi: riparlare del problema generale dell'Occidente cattivo che schiavizza i poveri paesi del terzo mondo è un tema vero, ma in quel senso non c'entra. Vorrei fare una trasmissione tecnica, dare elementi di comprensione. Non è facile poi capire solo leggendo dei giornali. Ho in studio Alfredo Mantici, ricordo direttore della rivista geopolitica Lookout News, ex capo del Dipartimento Analisi del SISDE. Ma volevo far intervenire velocemente, che so che è in fase di movimento, un altro ospite, perché sul Sole 24 Ore leggo un pezzo: Roma pronta alla terza guerra di Libia. Il pezzo di analisi è di Gianandrea Gagliani, che è un giornalista, un collega, dirige anche lui un mensile web, analisidifesa.it. Allora, Gianandrea, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Ecco, già chiamare la terza guerra di Libia dà un senso di concretezza, sì, perlomeno. Sì, sì, perché ci fu quella del 911-12 quando invademmo la Libia, che venne nostra colonia, c'è quella un po' più discutibile, se vuoi meno chiara, del 2011, in cui anche noi fummo costretti a combattere il nostro amico e alleato, c'era un trattato, Muammar Gheddafi. Certo, fu un momento, l'anno prima facemmo i padiglioni nel centro di Roma, danzatrici turcomanne e corsa di cammelli. Un anno dopo l'abbiamo guardato che l'hanno impalato in piazza e siamo stati zitti. Beh, non siamo gli unici a fare così, e poi l'abbiamo fatto anche con Bashar Assad nel 2010. Il presidente Napolitano andò 4 giorni a Damasco e decorò Bashar Assad con la più alta decorazione della che i nostri alleati italiana. Sappiano che c'è sempre un palo pronto per loro. Questa è la sintesi. Sì, allora, insomma, i giochi della politica sono questi spesso, no? Sì, tu, però tu fai un'analisi molto concreta, sì. Gaiani, nel senso tu cominci a dire esattamente cosa si muoverebbe. Allora, in uno scenario di concretizzazione dell'annuncio del ministro Pinotti, cosa si muoverebbe in Italia? Ma allora, intanto bisogna definire il quadro. Se l'Italia deciderà di intervenire solo per una missione di supporto al governo nuovo, che dovesse mai riuscire, speriamo, a insediarsi a Tripoli, quindi proteggere le istituzioni governative, addestrare le forze libiche, oppure se l'Italia dovesse aderire a un'operazione con i suoi alleati, quella che sembra si stia preparando, per combattere lo Stato islamico. In quel caso ci vorrebbe ben altro che forze terrestri che presidino punti fissi o istruttori, ci vorrebbero aerei da combattimento, elicotteri, ma anche, così scrivono al pezzo, non dimentichiamoci che ci vogliono truppe sul terreno, perché la guerra combattuta in Iraq e Siria dalla coalizione contro lo Stato islamico dimostra che l'impiego di forze aeree, se non hai sul terreno forze terrestri efficienti, efficaci, come ad esempio sono le truppe siriane che riescono a godere, a sfruttare l'appoggio aereo russo, ma non lo sono le truppe irachene, ad esempio, che nonostante l'appoggio delle forze aeree della coalizione non conseguono grossi progressi. Quindi cosa potremmo mobilitare noi, di quello che abbiamo a disposizione? Siamo concreti. Siamo in grado di mobilitare immediatamente una dozzina di aerei da combattimento. C'è una forza navale italiana. Ce li abbiamo che funzionano, pronti a partire? Sì. Un numero del genere ce l'abbiamo. Ma poi dopo non ci rimane molti altro. Molti di più, forse non ce ne abbiamo disponibili, però quel numero riusciamo. Ma ieri ce l'abbiamo. Le navi? Le navi sono già presenti nell'area. Abbiamo un gruppo navale di 6 navi da guerra che fanno parte del dispositivo Mare Sicuro, che è di fronte alle coste libiche, si occupa di garantire la sicurezza delle piattaforme offshore e viene spesso impegnato anche per raccogliere immigrati clandestini che arrivano. Quindi la forza navale c'è, si potrebbe aggiungerci una porta aerei, la Cavour, che dispone anch'essa a bordo di una dozzina, può imbarcare una dozzina di aerei da combattimento aria. Le forze ci sono, le truppe terrestri. Ecco, sul campo chi mandiamo? C'è la brigata paracadutisti Folgore. Certo, risentir parlare di Folgore e di El Alamein dopo tanto tempo... Beh sì, sì. Alamein era già in Egitto, non è, però la campagna era quella, no? Sì, sì, sì, sì. No, si è nominata prima. Sì, diciamo. Tu sai che la brigata Folgore è stata tolta 4 anni fa dai turni di rotazione sull'Afghanistan per tenerla come forza di riserva di pronto impiego per un'eventuale emergenza nel Mediterraneo o in Nord Africa, che fosse il Mali o che fosse la Libia. E poi ci sono le forze di pronto impiego della Marina. Ci sono i fucilieri della brigata di Marina, della brigata San Marco, che sono rapidamente mobilitabili. E poi ci sono le forze speciali. Insomma, il dispositivo c'è, il problema è decidere cosa andare a fare e che tipo di missione svolgere, perché se è vero che un anno fa distruggere lo Stato islamico in Libia era un'operazione probabilmente molto facile, perché lo Stato islamico era uno stato embrionale, oggi lo Stato islamico ha una forza più consistente. Distruggere in Libia vuol dire fare una campagna lunga e impegnativa. Quindi, diciamo, tu sei convinto che comunque sia, per quanto si stiano organizzando, non sarà proprio una passeggiatina questa guerra? No, oggi fare la guerra all'ISIS in Libia non sarà una passeggiata. Se qualcuno pensa, io mi riferisco ai nostri alleati, di poter cominciare a fare una campagna aerea con qualche incursione di forze speciali come si è fatto in Iraq e in Siria, e fa molto bene l'Italia a essere guardinga nel farsi coinvolgere in questa missione, perché quel tipo di guerra, lo abbiamo già visto in un anno e mezzo, in Siria e in Iraq contro l'ISIS, non ha conseguito nessuno dei risultati auspicati. Hanno fatto molto di più in termini militari contro le forze jihadiste i russi in 4 mesi con le truppe siriane di quanto abbia fatto la coalizione occidentale con iracheni, curdi e altri contro lo Stato islamico. Quindi un tipo di guerra sulla falsa riga dell'intervento in Iraq e Siria della coalizione io lo considero assolutamente inutile, se non in grado di peggiorare la situazione, perché rischia di catalizzare al fianco dell'ISIS anche quei movimenti islamisti, e ce ne sono tante di milizie che si richiamano al salafismo, agli musulmani, che oggi in Libia non sono alleate dello Stato islamico, ma che domani potrebbero rispondere a una chiamata generale al jihad contro i crociati, che poi siamo noi occidentali. No, è molto chiaro, no, sono soddisfatto del fatto che alla fine coincidono le opinioni dei nostri osservatori. Alfredo Mantici, anche Gaiani dice: attenzione, è un quadro talmente complicato, ci andiamo a metterci le mani, rischia che tutti si mettono d'accordo contro di noi. Esattamente, Gaiani ha perfettamente ragione, la situazione che ha illustrato è assolutamente quella che lui ha illustrato, la situazione reale. E ha fatto l'esempio che noi dovremmo seguire in questo momento, è l'esempio della cooperazione tra russi e governo di Assad e forze militari siriane lealiste. Noi dovremmo individuare un interlocutore affidabile istituzionalmente, con una sua legittimità garantita, e promuovere l'eliminazione dell'ISIS insieme alle forze locali, altrimenti, ha ragione Gaiani, torniamo ad essere i crociati, torniamo ad essere i soldati di Graziani. Ci infogniamo. E ci infogniamo. Marco, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Senta, grazie innanzitutto per la possibilità datami di intervenire. Complimenti a lei, Nicoletti, per le sempre interessanti trasmissioni. L'occasione era troppo ghiotta, visto gli illustri ospiti. Allora, vada con la domanda. No, volevo chiedere un paio di riflessioni velocissime in modo da non rubare tempo. Gheddafi era lì dal 67-68, è stato deciso di farlo fuori in pochi mesi, in due mesi, senza neanche una risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite, per una decisione unilaterale della Francia. E l'abbiamo detto. Quindi l'abbiamo detto. Quindi la politica estera dell'Unione Europea, guida franco-tedesca, è totalmente fallimentare, ha creato quello che ha creato alle porte dell'Italia, anche del nostro paese. Quindi un intervento, che adesso il dottor Gaiani ha spiegato benissimo come potrebbe essere strutturato e cosa bisogna fare, sarebbe a mio avviso opportuno quantomeno per mettere al riparo, diciamo, la nostra politica, la nostra sicurezza. Poi una seconda considerazione veloce: l'ISIS conquista territorio, macina territorio, controlla territorio dove ci sono pozzi petroliferi, quindi dove ci sono ricchezze, dove ci sono risorse, ma questo petrolio chi lo acquista? Non è un discorso di mondialismo, c'è un mercato nero del petrolio, un mercato parallelo, cioè, come chi compra rame, chi compra rame di quei che rubano in Italia. Qualcuno lo compra. Putin ha deciso, mi sembra, qualche settimana fa di dare un colpo forte all'ISIS, mi sembra incendiato e distrutto, certo, 19.000 camion di petrolio. Sul mercato nero 19.000 autobotti di petrolio è un po' una questione. Un'altra veloce considerazione: sì, gli Stati Uniti sono alla quinta generazione di tecnologia militare, in poche settimane potrebbero entrare addirittura nella sesta generazione di tecnologia militare. Da quello che so io, da quel poco che posso conoscere io, da quello che mi sa io, se volessero effettivamente distruggere per questioni di loro interesse l'ISIS, ci vorrebbero non giorni, chiedo un supporto anche a voi, ma forse qualche ora per distruggere l'ISIS. Allora, fermo là, sono troppe domande, fermo là. Allora, cominciamo, vado con Gaiani, che poi deve andare via. Molto velocemente, problemi di tecnologia. Cosa possiamo rischiare noi? Che ci arrivino dei missili un pochino più potenti di quello dei tempi di Lampedusa? No. E soprattutto, no, è vero quello che dice l'ascoltatore, che questi fantastici robot creati per uccidere, che vediamo nei film di fantascienza, perché non possono essere usati in questi scenari? Beh, perché intanto bisogna, noi tutti occidentali stiamo sempre attenti a non ammassare, a non fare vittime civili, no? E tu sai che i terroristi, i miliziani, i guerriglieri, ovunque essi siano, si fanno sempre scudo dei civili, certo, per questa ragione. Scuole, ospedali, Hamas, è chiaro. Lo fanno i talebani, lo farebbero anche le milizie libiche. E il problema credo che sia un altro, non è questione di tecnologia. È vero che sorprende che gli americani oggi dicano ci vorranno anni per combattere l'ISIS, quando in 6 settimane presero Baghdad e fecero cadere il regime di Saddam Hussein, e in altre 6 settimane, 2 anni prima, presero Kabul facendo cadere Kandahar, facendo cadere il regime di Talebani. Diciamo che gli americani hanno la tecnologia militare, l'Occidente ce l'ha, la più sofisticata della storia dell'umanità, ma l'Occidente ha un problema e gli americani hanno altri interessi. Il problema dell'Occidente è che la tecnologia che abbiamo non siamo socialmente e politicamente in grado di usarla nella maniera più devastante. Le guerre ammazzano un sacco di gente, noi non siamo più pronti ad accettare le perdite in guerra, neppure quelle che infliggeremmo, e questo è un problema politico-sociale. Ne parlò tempo fa in una conferenza a Londra il capo stato maggiore della difesa britannico, evidenziando che politica, Parlamento e società non sono più pronti ad affrontare i costi di una guerra, e questo rende di fatto le forze armate sì sofisticate, potentissime, ma di fatto scarsamente impiegabili per difendere gli interessi nazionali. E infine gli americani non sono più disposti a combattere per le aree energetiche, perché loro non servono più, perché loro hanno raggiunto l'autosufficienza energetica con lo shale gas e lo shale oil, e anzi il caos nelle aree energetiche colpisce o rischia, minaccia di colpire soprattutto gli interessi dei grandi competitor commerciali dell'America, che sono appunto l'Europa, il Giappone, la Cina, e quindi gli americani non hanno più voglia di fare guerre anche per questa ragione. Allora, grazie Gaiani, fermiamo un attimo da dare la linea, poi allora finiamo, allora, terminiamo poi la trasmissione nell'ultima parte con Mantici. Il quadro mi sembra chiarissimo, mi sembra che i nostri osservatori ci hanno dato tutti gli elementi per pensare e per riflettere, ma oddio, non ci hanno dato molta speranza su quello che può essere il nostro futuro in questa vicenda. A tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Melog, Cronache Meridiane. Nell'istante di pausa parlavo con Alfredo Mantici, ricordo ancora direttore della rivista geopolitica Lookout News, ex capo del Dipartimento Analisi del SISD, che mi diceva: guarda che gli americani hanno conquistato l'Iraq con 80 perdite, però altre 5.000 per poi mantenerlo. Il problema per la Libia è lo stesso, sì, mandiamo giù tutti, conquistiamo in 448, poi siamo ben attrezzati, poi rimanere lì sono problemi. Per questo è importantissimo avere una strategia politica per la gestione successiva, della fase successiva alla sicura vittoria militare. Ma l'esperienza irachena ci dimostra che in pochi giorni si conquista Baghdad. E questo non è sufficiente, perché bisogna avere le idee chiare su che cosa fare con la politica locale. Allora, se si deve intervenire in Libia e non si vogliono ripetere gli errori che abbiamo compiuto con l'Iraq, dobbiamo avere ben chiaro il dopo e ragionare sul dopo. Non ci dimentichiamo che Stalin, Churchill, Roosevelt si sono riuniti a Yalta un anno prima della fine della guerra per decidere gli assetti del mondo dopo la sconfitta del nazismo. Io prendo questo, tu prendi quello. Sì, esatto. Così deve essere, però dopo si litiga anche in famiglia. Giulio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Posso parlare? Certo. Perfetto, niente, io volevo solamente fare una considerazione che va un po' contro tutto quello che viene espresso dal mainstream negli ultimi due anni. Si parla tanto, continuandolo a chiamarlo ISIS, che non è il suo nome, si parla tanto di continuare a chiamare il califfo Abu Bakr al-Baghdadi, che non si chiama né Abu Bakr al-Baghdadi e non è un califfo legittimato dalla Umma Islamica e dalla Università di Al-Azhar. Si parla tanto di Stato Islamico, quando lo Stato Islamico storicamente è tutta un'altra cosa. E non si dice realmente come stanno le cose, che è l'unico, cioè l'unico no, per carità, ma il modo più semplice che si doveva fare quando nel 2014 si crea questo califfato, ma il modo più semplice sarebbe dire al mondo intero che il califfato non è legittimo, che Abu Bakr al-Baghdadi si chiama tutto in un altro nome, si chiama Ibrahim Ibn Abdul al-Samar. Ma io posso anche dire Dio non esiste, per loro non cambia molto. Però. No, per loro invece cambia molto, sì. Perché loro aspettano il ritorno del califfato, lei sa meglio di me che finisce con l'impero ottomano, non è più esistito. Per essere califfo, questo Abu Bakr al-Baghdadi si è autoproclamato califfo, mentre la procedura è tutta un'altra. Questa non è la religione sciita che aspetta l'imam, che aspetta la parusia, il ritorno del Mahdi. Questa è una figura reale. Sì, però quindi, secondo me le religioni sono sempre un po' aggiustate come volevano le loro vicende per poter continuare a mantenere un senso di indicibile nelle popolazioni che in qualche maniera controllavano. Non so, che la sua è senz'altro una rettifica dal punto di vista filologico inappuntabile, ma non credo che sia proprio questo il punto. Una persona si mette la cintura e si fa saltare in aria per ritrovare le vergini, cosa gli vai a dire che il califfo non si è? Lui ci va comunque, perché è convinto che quello sarà il migliore, sicuramente il migliore dei suoi futuri possibili, secondo me. Nell'ISIS nessuno si fa esplodere, e quella è la differenza, cioè i miliziani dello Stato Islamico, no, nell'ISIS, rarissimi casi, ma l'ISIS, la differenza che c'è ad esempio fra l'attentato di New York di Al-Qaeda, che quello era un jihad, era un martirio, perché si sono fatti volontariamente, serio, morire durante l'attentato, tutti i miliziani dell'ISIS, tranne qualcuno. Beh, a Parigi sono fatti saltare. Scusa, no, resti lì, non la voglio. No, guardi, Manti, ci vediamo come intervenire. Devo intervenire. L'ascoltatore ha perfettamente ragione sulla nascita dell'ISIS e sulla legittimità del califfato. L'ISIS nasce dallo stato maggiore di Saddam Hussein. Izzat Ibrahim al-Duri era il numero 3 del mazzo di carte americano ed è stato il padre fondatore dell'ISIS militare. L'ISIS nasce per l'incapacità del governo sciita iracheno che è succeduto al governo di Saddam di coinvolgere i sunniti nella gestione della politica irachena. È verissimo quello che dice. Quello che non è vero è che purtroppo il messaggio è passato oltre i confini e dietro l'ISIS ci sono sia gli attentatori di Parigi sia quella carne da cannone che viene usata sul terreno. In Siria i più grandi successi militari dello Stato Islamico vengono conseguiti con l'uso di suicidi che su camion riempiti di esplosivo si lanciano contro le trincee siriane. È un'arma finale, come i kamikaze durante la Seconda Guerra Mondiale, è un'arma pericolosissima e loro la usano sul terreno sistematicamente perché hanno una grandissima quantità di manodopera suicida disponibile al suicidio. Tenga presente che soltanto nei 5 anni della guerra in Iraq, del dopoguerra iracheno, circa 5.700 suicidi si sono immolati sul terreno. Scusa Mantici, il suicida lo motivi soltanto con delle argomentazioni certo, tipo trascendenti. Certo. Tu è giusto che muori per la guerra santa. Certo. Se ci la dici al di fuori non c'è più nulla, dici ma io col piffero perché dovrei farlo? No, allora, che al-Baghdadi può essere anche il più grande truffatore del mondo, della geopolitica mondiale, ma è un uomo che comunque ha attirato l'attenzione di una massa di esaltati che sono prontissimi a salire su un camion imbottito di esplosivo e a lanciarsi contro una casamatta dell'esercito siriano. Però Giulio, allora, vorrei capire bene. Mi sembra che... No, Giulio, faccio una domanda, così poi... Sì. Lei mi sembra dire che l'Occidente, oltre a affilare le armi, studiare le strategie, dovrebbe in qualche maniera fare una sorta di controinformazione su un piano proprio teologico? Assolutamente sì, e usare gli stessi strumenti che usano loro. Non si può paragonare la guerra in Iraq, dove la maggior parte erano sciiti, con qualche kamikaze di adesso sunnita, perché il jihad è il sesto precetto dell'Islam sciita, non dei sunniti. Quindi se chi si è proibito nell'Islam è proibito il suicidio, ma è ammesso il martirio. Ecco, però siccome mi interessa la sua ipotesi, non la trovo peregrina, quali potrebbero essere gli strumenti? Allora, l'ISIS, allora, abbiamo visto che ha perfettamente, non mi faccia finire, perfettamente cognizione di quali sono i sistemi di convincimento che funziona in Occidente. Ha messo a punto un sistema di informazione che è perfetto, ma nemmeno un direttore di marketing strategico di una nostra azienda farebbe una cosa del genere. Noi cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto una controcampagna sul web, perché i jihadisti dell'ISIS utilizzano il web, dicendo, in parole molto semplici, signori, voi avete pensato che questa persona, che non è il suo nome, perché Abu Bakr, lui prende il nome dal padre della sposa di Mohammed, di Aisha, quindi è già una delegittimazione, non è della tribù dei Quraysh, quindi non è della tribù di Mohammed, di Maometto il profeta, tantomeno del clan degli Hashemiti, che era del nonno del profeta. Secondo lei hanno strumenti culturali per entrare in questa complessità? No, siccome loro non ce l'hanno e sono succubi di questa retorica, bisogna comunicare al mondo intero, al mondo islamico e all'Occidente, con le loro stesse armi, che loro stanno contravvenendo le leggi del Corano, perché farsi esplodere contro un musulmano, che sia bambino, donna, anacoreta, è contro la legge. Fermo un attimo, Giulio, mi viene da pensare, Mantici, sicuramente sarà nei suoi studi che ha fatto, qualcosa come avveniva nel periodo della guerra fredda, Voice of America, queste cose qua, quello che propone l'ascoltatore è uno degli elementi che possiamo aggiungere alle possibili strategie? Ma è uno degli elementi che dovremmo aggiungere alle strategie. Noi abbiamo sempre perso la battaglia della cultura contro l'Islam, li abbiamo occupati. Non ci pensa nessuno, è vero, li abbiamo occupati, abbiamo fatto i confini con Righello e con la squadra, abbiamo messo insieme sciiti e sunniti senza sapere le differenze tra i due, e poi questi laboratori politologici ci sono esplosi in faccia, come le frontiere dell'ex impero ottomano stabilite da Sykes-Picot. Ma chi si dovrebbe prendere questa briga di fare un'operazione mediatica imponente che vada a toccare questi punti e con un linguaggio comprensibile, perché quello che dice l'ascoltatore è molto raffinato. Lo dovrebbero fare tutti gli stati interessati. Se esistesse un'ONU efficiente che ha addirittura dei grandi dipartimenti di cultura, potrebbe usare la cultura per diffondere la verità nel mondo degli estremisti. L'ONU, abbiamo visto, è un enorme pachiderma impotente che è capace soltanto di divorare fieno, e cioè finanziamenti. È un po' come quando nel seno delle grandi religioni subentrano le sette, i miracoli, le cose fantastiche. Ecco, in questo momento probabilmente nell'Islam è subentrato qualcosa che dà risoluzioni concrete e reali ai grandi problemi reali esistenziali. Allora, grazie innanzitutto a Alfredo Mantici, grazie al pubblico che ci ha così fortemente supportato, grazie a Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Alla prossima. Arrivederci.